Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Maturità, la prima prova tra Calvino, la resistenza, il Mediterraneo, le nuove tecnologie, 500.000 studenti chiamati all'esame, mentre sulla riforma della scuola si alza la tensione. Chiediamo perdono per chi chiude le porte ai rifugiati, dice il Papa nell'udienza del mercoledì. Salvini, del perdono del Papa non abbiamo bisogno. Lavori e soldi per ottenere lavoro, 44 indagati tra Rai, Mediaset, La 7, in fronte funzionari della Presidenza del Consiglio. Il sindaco di Roma in bilico dopo le parole di Renzi, avrebbe ricevuto un ultimatum dal segretario del PD, dai una svolta in 7 giorni o dimettiti. La polemica sulla Nutella, la ministra francese Ségolène Royal dice che non va consumata perché c'è l'olio di palma, ma Ferrero è tra le prime al mondo per l'uso di quello sostenibile. Basket, Reggio Emilia batte Sassari in gara 2, nell'NBA LeBron James non basta, Cleveland, i Golden State Warriors vincono il titolo per la prima volta da 40 anni. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura parliamo dell'esame di maturità in diretta. Maria Piera Ceci, buongiorno. Buongiorno Simone, allora bisognerà naturalmente sentire loro, gli studenti, quando fra poco inizieranno ad uscire da scuola. La sensazione però è che le tracce di quest'anno siano buone, perché aderenti alla realtà, come del resto il MIUR aveva annunciato che avrebbe voluto fare. Così è stato. Anche Renzi, ministro Giannini, questa mattina hanno twittato, hanno detto che sono anche loro curiosi di sentire i commenti. Fra poco lo faremo, perché come sai abbiamo anche sguinzagliato il nostro Nazareno Orlandi fuori dalle scuole, quindi sentiremo le loro voci. Ma veniamo dunque alle tracce di questa prima prova scritta dell'esame di maturità, quindi la prova di italiano uguale per tutte le scuole. Tipologia A, analisi del testo, Il sentiero dei nidi di ragno, il primo romanzo di Italo Calvino pubblicato nel 1947, ambientato in Liguria all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Tipologia B, il saggio breve, articolo di giornale, che ha varie tipologie. In ambito artistico letterario, la letteratura come esperienza di vita. Ci sono versi tratti dal canto quinto dell'Inferno di Dante, quello dell'amore di Paolo e Francesca, fra i documenti allegati anche immagini di Hopper, Matisse e Van Gogh. L'ambito socio-economico, le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella vita economica e sociale, fra i documenti un testo di Ignazio Visco e una raccomandazione del Consiglio europeo. L'ambito storico-politico, il Mediterraneo, Atlante geopolitico d'Europa e specchio di civiltà, un testo tratto dal libro Il mare di Paolo Frascani, che fra poco tra l'altro sentiremo. Ecco, volevo dire a questo proposito che questo testo piacerà molto a Massimo Cacciari, che ieri sera nel corso dello speciale Notte prima degli esami ci aveva proprio auspicato un titolo di questo genere per testare quanto i ragazzi di 18-19 anni sappiano di quello che sta accadendo nel Mediterraneo, ma soprattutto sappiano leggere il fenomeno dal punto di vista storico, forse anche per evitare estremismi e battutacce fuori luogo che si sentono in bocca a qualche politico in questi giorni. Ambito tecnico-scientifico, lo sviluppo scientifico e tecnologico dell'elettronica e dell'informatica ha trasformato il mondo della comunicazione, lo sappiamo bene che è così, oggi è dominato dalla connettività, questi rapidi e profondi mutamenti offrono vaste opportunità ma suscitano anche riflessioni critiche. Fra i documenti un testo di Maurizio Ferraris, Dove sei? Ontologia del telefonino, anche lui lo sentiremo poi più tardi. Tema di argomento storico, una riflessione sulla resistenza molto bella, partendo dal testamento spirituale di un ufficiale dell'esercito regio condannato a morte per aver partecipato appunto alla resistenza. Tema di ordine generale, si parte da una frase del premio Nobel per la pace, la studentessa pakistana 18enne di cui abbiamo parlato molto qui su Radio 24, Malala Yousafzai. I libri e la penna sono le nostre armi armi più potenti per riflettere sul diritto all'istruzione. Quindi insomma, queste le tracce davvero interessanti, avranno trovato gli studenti sicuramente qualcosa su cui cimentarsi. Tutto al momento sta filando liscio, il plico telematico ha funzionato anche questa volta, non si segnalano impicci di nessun genere. Da segnalare che a Cagliari una cinquantina di docenti si sono incatenati ai cancelli del liceo classico Dettori per manifestare contro la riforma della scuola che sta andando a rilento al Senato, ma questa è un'altra storia di cui parlerai fra poco. Sì, ne parleremo infatti tra poco, ma prima restiamo sui temi della maturità. Come avete sentito, c'era una delle tracce dedicata alla resistenza e un'altra traccia su un libro di Italo Calvino del 1947 che parla proprio e anche della resistenza, ambientato nel dopoguerra. Daniele Biacchessi. La resistenza contro il fascismo e l'occupazione nazista del nostro paese entra a pieno titolo nelle riflessioni dei nostri studenti e ci entra sul piano della riflessione storica e dell'analisi del testo dei Sentieri dei Nidi di Ragno di Italo Calvino. L'autore, uno dei più importanti del Novecento italiano, lo aveva scritto poco dopo la Liberazione ed era intriso di memorie e testimonianze della sua diretta partecipazione alla Resistenza. In uno dei passaggi più importanti del volume, Calvino scrive: «Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò, magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia. E tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del genere umano». Si tratta di una riflessione profonda che sintetizza il pensiero di una generazione che ha combattuto ed è morta per ideali che, come ampiamente dimostrato lo scorso 25 aprile nel 70° della Liberazione, restano ancora attuali, cioè la difesa dei valori scritti nella Costituzione. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torneremo a commentare le tracce della prova di maturità più avanti nel corso di Effetto Giorno, così come sempre toccheremo tutti gli altri temi. Come già sentivate nella diretta di apertura, la maturità arriva proprio nelle ore nelle quali si addensano le polemiche sul DDL scuola, con il Presidente del Consiglio che rilancia e chiede di tagliare il numero di emendamenti, ossia di proposte di modifica alla legge parlamentari, che sono 3.000, per evitare che saltino le assunzioni dei precari. Il punto con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, dopo ieri a Porta a Porta Matteo Renzi interviene questa mattina di nuovo sulla scuola, discutiamo e votiamo, saltano gli investimenti e quindi le assunzioni dei 100.000 precari, il Premier lo scrive su Facebook, o il provvedimento è una sciagura, come dice chi protesta, oppure può essere migliorato, ma è la prima riforma che dopo decenni mette i soldi sulla scuola e dà continuità educativa. E oggi i relatori del DDL al Senato hanno chiesto alle opposizioni e anche al PD di sfoltire i 3.000 emendamenti. Andrea Marcucci, senatore PD e presidente della Commissione Istruzione a Palazzo Madama, dice che sono 2.150 gli emendamenti presentati dalle opposizioni e se fossero ridotti la Commissione è in grado di approvare il DDL scuola in due sedute. La decisione quindi è in mano a tutti i gruppi parlamentari. Ma per Maurizio Gasparri, Forza Italia, Renzi annaspa e deve ritirare la riforma perché non è riuscito a delineare un nuovo disegno della scuola. Ieri il Premier ha anche mandato un avviso al sindaco di Roma, Ignazio Marino: se sa governare resti, altrimenti vada a casa. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, di questo torneremo a parlare più avanti, parleremo con una senatrice del Movimento 5 Stelle che è il partito, la formazione politica che ha presentato più emendamenti in assoluto. Resta in primo piano, come già sentivate, un altro tema politico che è la sorte di Ignazio Marino. Sempre più nella bufera, Ignazio Marino prova a tirare dritto. Anche stamattina il sindaco di Roma ha preferito non rispondere a chi gli chiedeva un commento sulle parole arrivate ieri dal presidente del Consiglio Renzi, pur escludendo l'ipotesi di un commissariamento del comune per mafia perché a suo giudizio non ci sono i presupposti. Il premier ha incalzato il primo cittadino: dimostri che sa governare, altrimenti vada a casa, ha detto in sostanza Renzi, un vero e proprio avvertimento che avrebbe spiazzato Marino, il quale non sarebbe comunque intenzionato a fare passi indietro. Non voglio passare per quello che ha fatto entrare i ladri in Campidoglio, avrebbe spiegato ai suoi collaboratori più stretti il sindaco, sempre più sotto assedio anche da parte delle opposizioni. elezioni. Roma è governata da uno zombie. Ignaro Marino è un morto che cammina, ironizza stamattina Beppe Grillo, secondo il quale quella arrivata ieri da Renzi è una condanna senza appello. La città deve essere liberata con il voto popolare, incalza il leader del Movimento 5 Stelle, forte del successo incassato alle ultime amministrative. Ad essere sotto attacco per Mafia Capitale in queste ore intanto è anche il governatore del Lazio Zingaretti, nei confronti del quale è stata presentata una mozione di sfiducia che viene discussa oggi dal Consiglio regionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Altro tema che resta al centro della discussione politica è quello dell'immigrazione, ma non solo della discussione politica, perché oggi ha parlato anche Papa Francesco. Continua il dibattito sull'immigrazione a tutti i livelli. All'indomani del vertice di Lussemburgo, un primo passo per trovare una risposta europea all'ondata di immigrati, e all'indomani dello sgombero dei profughi dagli scogli sul confine con la Francia a Ventimiglia, interviene Papa Francesco questa mattina durante l'udienza generale con un forte appello non solo alle preghiere. Vi invito tutti a chiedere perdono per le persone e le istituzioni che chiudono la porta a questa gente. Immediata e polemica la replica del segretario della Lega Salvini ai microfoni di Radio Padania. Quanti rifugiati ci sono in Vaticano? Il problema è che i rifugiati, dice, sono un quarto di quelli che arrivano. Noi non abbiamo bisogno di essere perdonati. E mentre giunge a livello nazionale il sì dell'Aula della Camera all'impegno del governo a promuovere un sistema di asilo europeo che consenta un'equa ripartizione degli oneri tra gli stati membri di primo ingresso e gli altri, c'è attesa per l'esito dell'incontro tra il ministro dell'Interno Angelino Alfano e i rappresentanti di Regioni e ANCI, che dovrebbe portare a una verifica sul piano di distribuzione delle presenze. Ma arriva un nuovo altolà a nuovi arrivi per saturazione del presidente della Regione Veneto Luca Zaia nell'audizione al comitato Schengen dedicata all'immigrazione. Su 579 comuni, tali sono i comuni del Veneto, solo 5 ad oggi sulla carta hanno confermato una timida minima disponibilità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo ad un altro tema al centro anche del dibattito europeo, che è il tema della Grecia. Dopo le dichiarazioni ieri molto dure di Tsipras contro il Fondo Monetario Internazionale, e però la speranza per un accordo non è caduta, e probabilmente questo accordo non lo vogliono far fallire nemmeno i greci. È così, Vittorio Darold del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi, sì, esattamente così Simone. Il Premier ha fatto il solito discorso molto agguerrito per cercare di dare solidarietà e unire la sua maggioranza, soprattutto rivolgendosi alla sinistra di Siriza, quella ala che ha 30 voti in Parlamento, ma intanto a Bruxelles continua a mediare, a fare il pontiere. Naturalmente la soluzione di questa odissea dell'euro è un compromesso che non umili Atene e le sue aspettative in cambio di tagli ancora sulle pensioni, quelle magari più complesse, quelle sui prepensionamenti, e riduca magari quel tentativo di aumentare l'IVA, ma non puntando su aumenti delle medicine o sui generi di prima necessità, ma eliminando ad esempio l'esenzione per le isole che oggi ancora esiste. Quindi andare a un default di un paese della zona euro, come ha ricordato il presidente della BCE Mario Draghi, è una terra incognita, un'area sconosciuta per tutti i partner e quindi dagli esiti imprevedibili. Una situazione su cui si è innestato il drammatico appello della Banca Centrale Greca e del governatore Sturnaras, che senza un'intesa Atene sarebbe fuori non solo dall'euro ma poi anche dall'Unione Europea. E sulla Grecia è tutto, a te Simone. E grazie Vittorio Darold del Sole 24 Ore per questi aggiornamenti. Parliamo adesso del giocatore della Juventus, Vidal, che ha fatto parlare di sé questa notte, non per questioni calcistiche. Solo ferite lievi per lui e la moglie, ma Arturo Vidal è stato arrestato dopo l'incidente stradale che lo ha visto protagonista. La Ferrari, che il centrocampista cileno della Juventus guidava, si è scontrata con un'altra vettura a Santiago del Cile ed è andata distrutta. Ricoverato in ospedale, Vidal è stato poi sottoposto ad una serie di esami che hanno evidenziato un tasso di alcol superiore alla norma consentita per guidare, di qui il provvedimento di fermo. Il calciatore si trovava a Santiago per la Coppa America ospitata quest'anno proprio dal Cile. Dopo il pareggio 3-3 con il Messico, aveva trascorso il pomeriggio libero in un resort di lusso. Al rientro l'incidente. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dal calcio, o meglio da storie parallele al calcio, passiamo a parlare di basket, perché mentre sono in corso le finali italiane, ci sono anche quelle americane per il titolo che si sono concluse ieri. Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Si sono concluse ieri con una vittoria storica. Non capitava dal 1975, qualche annetto fa, anno dell'ultimo titolo dei Golden State Warriors. Non è mai successo ai Cleveland Cavaliers. LeBron James dunque non ce l'ha fatta ad essere di nuovo profeta in patria. 101-97 il risultato finale a Cleveland, e serie che si chiude 4-2. Golden State di Steph Curry, MVP della stagione, di Iguodala, votato MVP di queste finali, che festeggiano il loro secondo titolo. Ricordo, primo era stato nel 75 quando c'era tale Rick Barry, magari qualcuno con la memoria lunga se lo ricorda. In Italia sarà comunque qualcosa di inedito, ancora di più perché Reggio Emilia e Sassari stanno combattendo la loro finale al meglio delle sette partite per quello che sarà comunque e dovunque vada il primo scudetto. Reggio Emilia avanti 2-0, ieri ha conservato di nuovo il fattore campo, 84-71 il punteggio finale. Adesso la serie si trasferirà in Sardegna. Però davvero aria totalmente nuova su ogni angolo del pianeta del basket, Simone. Grazie Carlo, immagino che anche di questo tornerete, certo, a parlare, certo, in tutti i convocati a partire dalle 14. Adesso c'è il traffico, noi ci ritroviamo subito dopo. Ci sono un paio di cose interessanti. La prima è che è stato beccato il primo errore nelle tracce della maturità, e fra un attimo vi racconteremo qual è. Parleremo della polemica di Ségolène Royal contro la Nutella, perché c'è dentro l'olio di palma, e poi l'inchiesta di Roma, della quale già vi raccontavamo nei titoli, che vede indagati anche funzionari della presidenza del Consiglio dei Ministri. A tra poco. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Autorità, la prima prova tra Calvino, il Mediterraneo, le nuove tecnologie, 500.000 di studenti chiamati all'esame. È già beccato un errore nelle tracce. Chiediamo perdono per chi chiude le porte ai rifugiati, dice il Papa nell'udienza. Salvini, del perdono del Papa non abbiamo bisogno. Favori e soldi per ottenere lavoro, 44 indagati tra Rai, Mediaset, La 7 in fronte, funzionari della presidenza del Consiglio, ci arriveremo tra un attimo. Il sindaco di Roma in bilico dopo le parole di Renzi, avrebbe ricevuto un ultimatum dal segretario del PD, dai una svolta in 7 giorni o dimettiti. E siamo a questa polemica sulla Nutella lanciata dal ministro francese Ségolène Royal, dice che non va consumata perché c'è l'olio di palma. Da segnalare tra l'altro che in realtà in una ricerca realizzata dal WWF su chi usa olio di palma responsabile, per così dire, sostenibile, risulta che la Ferrero è al secondo posto in assoluto tra tutte le aziende prese in esame, che sono circa 150. Abbiamo con noi Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore, che oggi firma un commento proprio su queste parole di Ségolène Royal. Jacopo, dacci una mano a capire come interpretare, come rispondere a quello che dice la ministra. Beh, in primo luogo Ségolène Royal ha considerato che tagliare foresta pluviale per piantare palme da olio ha un danno ambientale, ha un aggravamento dell'effetto serra, perché si riduce la produzione di ossigeno, l'assorbimento di anidride carbonica e così via, che da un certo punto di vista ovviamente è vero, ha un impatto, come tutto ciò che noi facciamo Abbiamo un impatto sull'ambiente, è innegabile, ma non è l'olio di palma, non è la Nutella ciò che produce il cambiamento climatico, non è questo, ci sono milioni di altri consumi, milioni forse no, ci sono sicuramente un'enorme quantità di altri consumi di olio di palma, sto pensando ai saponi, pensiamo a una famosissima marca di sapone, il Palmolive, che è fatto appunto soprattutto di olio di palma, e tutti gli altri consumi alimentari, i biscotti, i gelati, i surgelati, i sughi, le fette biscottate, tutto contiene olio di palma perché è un olio tuttofare, buono dal punto di vista salutistico nonostante le voci che girano sul web, è molto neutrale dal punto di vista del sapore rispetto agli altri ingredienti, non copre gli altri ingredienti, ha un impatto ambientale forse più basso di chissà quanti altri grassi. Sì, perché tra l'altro con un ettaro di palme da olio si ottiene quasi 5 volte secondo alcuni calcoli l'olio che produce un ettaro coltivato a piante di arachidi e 7 volte quello di un ettaro da girasoli, quindi anche il consumo di suolo che c'è stato indubbiamente non è così forte come magari dovendo utilizzare altri grassi. Ma pensiamo anche solamente all'effetto che potrebbe produrre sull'ambiente la sostituzione di olio di palma con burro. Burro, cioè allevamento di vacche da latte, cioè mangimi, estensioni enormi di mangimi e tutto ciò che produce l'industria, non tanto della carne in questo caso, soprattutto del latte, come effetto ambientale, come impatto sull'ambiente, che è molto più forte. Grazie a Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore per questa sua analisi e questo commento. Vi abbiamo detto che saremmo andati a parlare di questo primo errore scovato nelle tracce della maturità. Piera Ceci, qual è? Sì, abbiamo portato un po' sfortuna al MIUR perché avevamo appena detto che tutto stava filando liscio e invece beccato il primo errore. È nella traccia artistico-letteraria dove vengono proposte anche le immagini di un'opera di Matisse. Il titolo La lettrice in abito viola, olio su tela 1898. Peccato che quel quadro non sia proprio quello, bensì La lettrice in bianco e giallo del 1919. Lo ha segnalato, e onora al merito, Olivia Maneo della cattedra in storia dell'arte da diversi anni nello storico liceo linguistico milanese. Il preside, che peraltro coincidenza abbiamo sentito ieri notte prima degli esami, ha detto peccato, non è certo un bel esempio per i ragazzi. E grazie a Maria Piera Ceci, noi restiamo sulla maturità e saluto Roberto Carnero che è professore di italiano di liceo e critico letterario anche per il domenicale del Sole 24 Ore. Professor Carnero, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Come giudica, e lei la interroghiamo per così dire, visto che di maturità stiamo parlando, mi sembra giusto. La interroghiamo su Calvino, come giudica la scelta A di Calvino da una parte e dall'altra parte la scelta del Sentiero dei Nidi di Ragno, forse non il più noto di Calvino e forse anche uno dei meno maturi tutto sommato? Ma in realtà se qualcosa di Calvino si fa a scuola forse è proprio Sentiero di Ragno, perché è un romanzo del 47 e il grosso problema dei programmi di italiano all'ultimo anno delle scuole superiori è che spesso non si arriva al secondo Novecento, no? E se si arriva al neorealismo, nel cui ambito si colloca appunto quest'opera, è già tanto, quindi direi che qualche studente magari si lamenterà dicendo non siamo arrivati a Calvino, ma in realtà poi è un tipo di traccia che non presuppone la conoscenza storico-letteraria dell'autore, cioè è una traccia autonoma, uno legge il brano e le domande sono tutte relative a cose che si possono ricavare dal brano, quindi direi una traccia sicuramente non complessa, non difficile, che ha messo a proprio agio immagino gran parte dei candidati che hanno scelto questa tipologia di prova, l'analisi del testo. Quindi una traccia semplice, dice una lei. Traccia insomma, semplice, dovrebbe... direi. Poi appunto è un brano in cui c'è un po' un ritratto del protagonista, Pin, questo ragazzino che appunto vede combattere la resistenza in Liguria e non capisce bene che cosa sia, si sente adulto perché qualche persona più matura gli rivolge la parola, parla con lui e si sente invece a disagio con i coetanei che un po' lo bullizzano, c'è anche un po' il tema del bullismo se vogliamo, no? Nel brano riportato, E quindi direi che è una traccia assolutamente abbordabile. Una traccia abbordabile, e la giudica positiva come scelta, professore? Giudico positivo il fatto che si proponga un autore del secondo Novecento, qual è Calvino, seppur in questo caso nell'opera d'esordio, perché forse questi esami hanno anche un compito, no? Che è quello di spingere gli insegnanti ad avvicinarsi sempre di più alla contemporaneità. Le indicazioni ministeriali relative ai programmi lo prevedono. Di fatto, spesso per una scarsa capacità di organizzarsi nel corso dell'anno da parte dei docenti, effettivamente quel programma è molto vasto, quello dell'ultimo anno, non si arriva ai giorni nostri, non ci si avvicina neanche. Girando per le commissioni d'esame come commissario negli anni scorsi e ora come presidente, vedo che nella maggior parte dei casi, se si arriva a Ungaretti e Montale è già tanto, no? E questo non è accettabile, non va bene. Allora, se il Ministero sempre più proporrà autori recenti, è anche un modo per stimolare i docenti a fare quello che dovrebbero fare, cioè gli autori più vicini a noi. Grazie Roberto Carnero, professore di italiano al liceo, critico letterario anche per Il Domenicale. Noi torniamo alla cronaca adesso e parliamo di quest'inchiesta che vede indagati anche dei funzionari della Presidenza del Consiglio. Il tema è ancora una volta la corruzione. Lo schema è sempre lo stesso: favori, assunzioni, vacanze in cambio di appalti. Ma l'ultimo terremoto giudiziario entra fin dentro gli studi delle principali emittenti TV, dalla Rai a Mediaset, dalla 7 a Infront. Tra Roma, Milano e Napoli sono una sessantina le perquisizioni dei militari della Guardia di Finanza entrati nelle sedi delle TV questa mattina con accuse pesanti: concorso in corruzione o appropriazione indebita a carico di 44 funzionari e dirigenti di tutti e quattro i gruppi. Ad unire emittenti concorrenti le attività di uno stesso imprenditore, David Biancifiore, titolare di società di servizi per supporto alle produzioni, solo che per aggiudicarsi lavori, scenografia, impianti audio e regie mobili anche all'estero, entrava, secondo l'inchiesta coordinata dal PM Paolo Ielo, nelle grazie dei dirigenti, regalando vacanze, biglietti aerei, assumendo figli e parenti, tutte tangenti insomma, finanziate attraverso false fatture, fatture gonfiate cioè, per poter ottenere i fondi necessari alla corruzione. Tra gli indagati anche due dirigenti di Palazzo Chigi dei tempi di Silvio Berlusconi, ossia Roberto Gasparotti, già responsabile dell'immagine TV del leader di Forza Italia, e Giovanni Mastropietro, direttore della fotografia. Il sospetto è che dietro una commessa da 8 milioni per Biancifiori ci fosse anche in questo caso un giro di bustarelle. Schema sempre uguale, ma scricchiolare stavolta è il cuore dell'emittenza TV. Raffaella Calandra, Radio 24, Sulle 24 Ore. Prima della pausa una risposta ad un ascoltatore, un'ascoltatrice che ci dice: ma perché sull'olio di palma non fate parlare un dietista o una dietista invece di un giornalista? Semplicemente perché il tema che stiamo affrontando qua non è tanto quanto faccia bene o male alla dieta l'olio di palma, quella è una scelta che poi riguarda il consumatore, cioè voi potete scegliere anche cose che ci sono sul mercato che non contengono olio di palma. Il tema era la sostenibilità ambientale dell'olio di palma e quali sono le alternative nel caso non l'industria non utilizzi l'olio di palma. Di questo abbiamo parlato, adesso ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo e torniamo a parlare di scuola, ma in questo caso del DDL scuola. Pendono 3.000 emendamenti, Renzi ha detto salta l'assunzione dei precari probabilmente quest'anno se questi emendamenti non verranno sfoltiti, e parleremo con una senatrice del Movimento 5 Stelle che ne ha presentati parecchi. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La maturità, nella prima prova tra Calvino, la resistenza, le nuove tecnologie, 500.000 di studenti chiamati all'esame. Il Papa nell'udienza parla di immigrazione: chiediamo perdono per chi chiude le porte ai rifugiati. Salvini: del perdono non abbiamo bisogno. Favori e soldi per ottenere lavoro, 44 indagati tra Rai, Mediaset e La 7, in fronte ai funzionari della Presidenza del Consiglio. Il sindaco di Roma in bilico dopo le parole di Renzi, parla il commissario del PD romano Orfini: Marino non resta, va via dal suo posto perché lo decidiamo noi, la sua fonte di legittimazione sono i cittadini. La borsa. Bomi si quota su AIM Italia, info su bomigroup.com. Vi presenta... Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Michela Montevecchi, senatrice del Movimento 5 Stelle, buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni. Ci sente? Abbiamo Michela Montevecchi, ci sente? Buongiorno. No, evidentemente non ci sente, abbiamo qualche problema tecnico, vediamo se riusciamo a recuperarla, evidentemente sono un paio di giorni che succede, esattamente a quest'ora, nella terza parte di Effetto Giorno, abbiamo qualcuno che non ci sente. Va bene, allora facciamo una cosa, intanto andiamo a sentirci un altro po' di cose sulla maturità. Abbiamo ampiamente commentato la parte sulla traccia di Italiano. La traccia in ambito storico-politico propone una riflessione sul Mediterraneo, Atlante geopolitico d'Europa e specchio di civiltà. Fra i testi proposti c'è un brano del mare di Paolo Frascani, che è docente di storia economica e storia della società europea in età contemporanea all'Università di Napoli. L'intervista appunto a Paolo Frascani di Nazareno Orlandi. La trovo opportuna sia da un punto di vista culturale in senso generale, sia dalla realtà geopolitica, dalle questioni anche che da questo mare esplodono ed emergono nei nostri confronti, quindi è anche una chiamata, diciamo, alla realtà per capire i giovani come potrebbero interpretare. Credo che l'attenzione, diciamo, degli studenti si sarà posta e collocata, poi non so in che modo loro riusciranno a recuperare questa traccia e metterla naturalmente in collegamento con quello che io scrissi, su questa problematicità oggi di vedere gli altri in maniera corretta. E sentiamo un'altra persona presente nelle tracce. Nella traccia tecnico-scientifica si chiede di riflettere su come lo sviluppo della tecnologia, dell'informatica abbiano trasformato il nostro modo di comunicare. Su questi mutamenti ci sono vaste opportunità, si legge nella traccia, ma anche riflessioni critiche. Fra i documenti un testo di Maurizio Ferraris, filosofo e docente all'Università di Torino, autore di Dove sei? Ontologia del telefonino. L'intervista è sempre di Nazareno Orlandi. Il brano citato è un brano che ha un carattere probabilmente archeologico per gli studenti, perché si fa la differenza fra il telefono fisso e il telefono mobile, e io penso che molti studenti non abbiano mai visto un telefono fisso, non mi sembra implausibile, o forse hanno dei remotissimi ricordi d'infanzia in cui esisteva questo strano oggetto che era il telefono fisso e adesso si stanno chiedendo che cosa sia. Forse abbiamo recuperato la linea e ci riproviamo. Michela Montevecchi, senatrice del Movimento 5 Stelle, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Quanti emendamenti avete presentato al DDL Scuola voi come Movimento 5 Stelle? Allora, inizialmente 680, sì. e poi si aggiungono altre poche centinaia di sub-emendamenti che siamo stati costretti a presentare a seguito della presentazione da parte dei relatori del provvedimento di emendamenti che riscrivevano completamente quattro articoli del disegno di legge, l'1, il 2, il 3 e l'8. Gli emendamenti lo ricordiamo agli ascoltatori, perché non è che poi tutti lo sappiano, sono le proposte di modifica ad una legge che possono venire appunto dall'opposizione o dalla maggioranza. Comunque 700, 680, e sono 700 in sostanza emendamenti, sono veramente parecchi, senatrice, posto che questa è una tattica che da tutte le opposizioni viene utilizzata regolarmente per rallentare l'iter dei provvedimenti. A questo punto, allora, se la blocco, 680 emendamenti per la riforma della scuola, che si compone di 25 articoli e di tantissimi argomenti, e di quella complessità, sono veramente un numero minimo per entrare nel merito del provvedimento. Un numero minimo, dice. Quindi, secondo lei non sono sfoltibili questi emendamenti? Allora, noi quando in fase di subemendamenti ne abbiamo già sfoltiti alcuni, quindi ci siamo già dimostrati propensi a lavorare seriamente su questo disegno di legge. Pertanto rispediamo al mittente tutte le critiche che sono state fatte speciosamente sul numero degli emendamenti. Noi siamo rimasti nel merito, e chi li ha letti lo vede, non ci sono emendamenti a cascata, non ci sono emendamenti fuffa che tolgono una virgola. Cioè, appunto, questo mi interessa molto, perché poi il punto è quello, come dicevo, spesso è una tattica che viene utilizzata legittimamente dai partiti delle opposizioni, spesso, o da chi si oppone a determinati provvedimenti, per rallentare l'iter del provvedimento. E quindi a volte si presentano, c'è il caso per esempio di un emendamento presentato dal senatore Mauro che ricalca la stessa cosa tre volte, modificando solo il numero di ore di formazione che bisogna effettuare in azienda. Se volete, questi sono tutti i documenti disponibili sul sito della Camera. È chiaramente un emendamento che serve per, sono tre emendamenti paralleli che servono per rallentare il lavoro. Voi dite: noi questo non l'abbiamo fatto. No, questo non l'abbiamo fatto, le dirò di più, che le opposizioni in fase di illustrazione degli emendamenti hanno tutte rinunciato all'illustrazione degli emendamenti per passare velocemente alla fase delle votazioni. E lì c'è stato un altro problema, i lavori nella commissione bilancio. Quindi, guardi, ribadisco, cioè sono accuse ingiuste, immeritate, speciose e motivate dal fatto di coprire la reale volontà del governo di far passare questa riforma utilizzando come cavallo di Troia il piano straordinario delle assunzioni per poi far passare tutto il resto, che è la cosa, una delle cose che preoccupa di più il mondo della scuola. Quindi è stato un attacco ingiusto e la solita fuffa, perché quando poi Renzi a porta, tra l'altro quindi neanche in una sede istituzionale, dice che convocherà gli stati generali della scuola per ascoltare, noi gli diciamo: ma mi scusi, dov'era Renzi e dov'era il governo quando c'è stata la consultazione? Lei dice dovevate farlo prima, sostanzialmente, questo di consultare. Ci sono state ben quattro occasioni. Però mi scusi senatrice, però forse è anche corretto collegare l'assunzione dei precari anche alla riforma della scuola, cioè le due cose in qualche misura devono andare di pari passo, non pensa? Allora, noi sin dall'inizio abbiamo detto che sarebbe stato l'ottimale stralciare, quindi spacchettare il provvedimento, ragionare sul piano straordinario delle assunzioni, perché quello proposto da Renzi ha scontentato praticamente gran parte del mondo della scuola, e poi con i dovuti tempi ragionare sul resto dell'impianto della riforma, che stravolge completamente quello che è l'impianto attuale del nostro sistema di istruzione, okay? Le due cose potevano andare benissimo avanti una di conseguenza all'altra, okay? Senza tutto il pasticcio che hanno fatto, ribadisco, utilizzando il piano straordinario delle assunzioni per far passare il resto. La ringrazio, grazie senatrice, mi scusi, abbiamo veramente poco tempo, la ringrazio per aver partecipato alla trasmissione. Noi ci fermiamo, c'è il traffico, poi la nostra rubrica sugli autotrasporti, Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.